sono la sola che hai. O pensi a qualcuno mentre lo fai? Vorrei sapere di più se stai facendo con me le stesse cose che tu magari hai fatto con chi, sostituendosi a me, a tutto ha detto di sì, come io adesso con te. E se poi fosse così, che pugnalata per me, se ti sei dato fin qui, vorrei sapere perché, vorrei sapere però, ho già paura che poi potrei scoprire che c'è uno strapiombo per noi oltre la montagna. Cosa ci sarà, chissà, oltre la montagna, oltre. È proprio come una montagna sei, che dietro non si vede cosa c'è. Potresti chiedermi tu, e allora io non vorrei dire di più. Tu sei la mia libertà, tu sei la mia schiavitù. Thank you.